Radio Tube, l'intervista di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di Radio Tube, come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Studi di Radio 24, Milano. Amatissimo dai ragazzi, viaggia tra rap, pop, trap e emo. Volto tatuato ma cuore d'oro, è uscito col singolo Se ci sei tu. Lui è Johnny Scandal. L'aspetto è... non è tutto, diciamo, ecco, sì, ci sono anche tatuati in faccia come me che hanno un cuore, sono più sensibili di quelli in giacca e cravatta, questo sì. L'ultimo singolo si chiama Se ci sei tu ed è appunto una dedica che ho fatto alla mia ex ragazza, e perché sono più bravo a scrivere un pezzo e dire qualcosa tramite una canzone che dirlo parlando con una persona, e quindi ho scelto questo metodo per dire delle cose, ecco. Tu vieni da un periodo veramente denso, un sacco di sold out, un sacco di riscontro da parte dei ragazzi. Hai detto che in questo momento sei chiuso in studio, che vuol dire che comunque tutto questo ti ha dato una carica per scrivere, per fare? Sono sempre stato così, nel senso che non mi sono mai praticamente fermato da quando è iniziato la mia carriera ad oggi. Sono sempre stato uno che finito un progetto, non dico il giorno dopo, perché comunque c'è bisogno di vivere una nuova esperienza, hai bisogno almeno di viaggiare, di conoscere nuove persone, di vedere nuovi posti, insomma, per poter scrivere nuove canzoni, un nuovo album, eccetera, eccetera. Però non mi sono praticamente mai fermato. A costo di veder felice me, io che quando sono un po' giù, ci sei tu e sti difetti con te non ce li ho più, e scappiamo via domani, che qua giù tanto sono tutti normali. Ti passo tra un po', scappiamo da qui, dove non lo so, basta che sei qui, come starò, non mi importa più, tanto tutto ok, se ci sei tu. Se ci sei tu il mondo è un po' meno brutto, perché prima eri niente, adesso sei tutto ciò che mi serve. Ti posso tra un po', scappiamo da qui, dove non lo so, basta che sei qui, come starò, non mi importa più, tanto è tutto ok, se ci sei tu. Hai scritto su Instagram che non vuoi più limiti, cosa significa? Sono arrivato a un certo punto, cioè arrivi a un certo punto della tua carriera in cui sei un pochino saturo. Io mi sono sentito saturo, iniziamo a entrare in studio, era più noioso fare musica che divertente. Sono arrivato a un punto in cui sentivo che ogni pezzo era uguale all'altro. Ho guardato il mio produttore e gli ho detto: fra, fermiamoci un secondo, perché mi sono stufato di scrivere sempre le stesse cose, o comunque girare sempre intorno. Cioè mi sentivo dentro una bolla di 2 metri, quando in realtà la musica è 600 chilometri di diametro, non è 2 metri. E io mi sentivo dentro questa bolla di 2 metri, però se dopo alzi gli occhi e guardi fuori, ti accorgi che la musica è infinita. Mi sono sentito un attimino stufo di fare sempre pezzi d'amore e ho detto: io da oggi in poi voglio entrare in studio e fare quello che voglio fare. Se oggi voglio fare un pezzo rap, faccio un pezzo rap. Tra l'altro ieri sera, appunto, è uscito su Instagram un freestyle in extra beat. E quindi mi sono sentito anche in dovere di avvisare i fan che, insomma, non aspettarsi più il solito Johnny. Senti, però nel freestyle che hai postato su Instagram, cioè, c'erano delle espressioni belle forti. Esatto, sì, ma perché io, cioè, vedi, è esattamente come ti spiegavo ora. Io voglio dire la verità delle cose, nel senso, c'è anche un'altra parte di me che non è mai venuta fuori, o che sa solo chi mi ha ascoltato dai primi dischi. Quindi c'è un lato di me che la gente non sa, e io, tenendomi dentro questo lato, mi sentivo oppresso dentro, mi sentivo una pressione dentro, sentivo che c'era qualcosa che doveva uscire fuori, e quindi ho deciso che il metodo per star bene, perché comunque Black Mood, che è l'album che è uscito a settembre, parla del periodo in depressione che ho passato, e scavando a fondo ho capito che secondo me la depressione è nata anche da questo, cioè il fatto di fare il mio lavoro, la mia passione, la mia arte, restringendola a qualcosa che non è al 100% vera. Ed è tutto per questa puntata di Radio Tube, l'intervista con Johnny Scandal. I prossimi appuntamenti con Radio Tube sono il sabato con Social Village e Social Network, in diretta dalle 16.